Capitolo 14. La previsione di Fanny sembrò destinata a dimostrarsi più giusta di quanto Edmund avesse supposto. Trovare un lavoro teatrale adatto a soddisfare i desideri di tutti apparve subito non facile impresa e il falegname, che aveva già ricevuto l'incarico di costruire il palcoscenico, dopo aver preso le misure, individuato e risolto una lunga serie di difficoltà attinenti al progetto, aveva dimostrato l'evidente necessità di ampliarlo con conseguente aumento della spesa. Si era già messo all'opera, mentre il copione da mettere in scena non era ancora trovato. Altri preparativi erano già in atto. Da Northampton era arrivato un enorme rotolo di pesante panno verde che, tagliato da Mrs. Norris, la quale grazie alla sua saggia amministrazione aveva risparmiato 3 buone spanne di tessuto e affidato alle mani delle cameriere, stava ormai prendendo forma di sipario. E ancora mancava il testo. E poiché erano trascorsi 2 o 3 giorni senza che si giungesse a una soluzione, Edmund incominciò a sperare che non la si sarebbe trovata mai. Infatti, i requisiti da prendere in considerazione erano tanto numerosi che dovevano essere accontentate tante persone, soddisfatte tante pretese di chi sollecitava una parte importante e soprattutto si insisteva tanto sulla necessità che il lavoro fosse contemporaneamente tragedia e commedia da far pensare che vi fosse tanta probabilità di arrivare a una soluzione quanta ne può offrire un qualsiasi altro progetto perseguito con estremo zelo giovanile. Le signorine Bertram, Harry Crawford e Mr. Yates sostenevano la causa della tragedia. Per la commedia propendeva Tom Bertram in posizione non del tutto isolata, dato che le preferenze di Mary Crawford andavano nella stessa direzione, anche se, cortesemente, si tratteneva dall'intervenire direttamente, tanto più che la tetragona determinazione di lui e la sua indiscussa autorità sembravano rendere superflua ogni alleanza. Oltre a questa irriconciliabile divergenza, interveniva poi il fatto che a loro occorreva un lavoro con pochissimi personaggi, ma tutti di importantissimo livello, fra cui 3 parti femminili di primo piano. Tutte le opere migliori furono prese invano in esame, né Amleto, né Macbeth, né Otello facevano al caso, né Douglas, né The Gamester presentavano elementi tali da soddisfare almeno i patiti della tragedia, mentre The Rivers, The School for Scandal, Wheel of Fortune e The Hare at Law, senza citare una lunga serie di eccetera, vennero scartati con obiezioni ancora più pertinenti. Sembrava impossibile proporre un testo che non offrisse il destro alle critiche di qualcuno di loro e da una parte all'altra delle 2 fazioni era un continuo rimbalzare di «Oh no, questo non fa il caso nostro, lasciamo stare le tragedie ampollose, troppi personaggi, non una sola parte femminile accettabile in tutto il lavoro». Qualsiasi altra opera, ma non questa, caro Tom. Sarebbe impossibile metterne insieme tutti i personaggi. Non si può pretendere che qualcuno accetti una simile parte, una pura e semplice buffonata dal principio alla fine. Questa forse potrebbe andare, tranne che per le parti minori. Se proprio devo esprimere la mia opinione, ho sempre considerato questo il dramma più insipido che sia mai stato scritto in inglese. Non desidero fare obiezioni personali, sarò felice di rendermi utile, ma penso che non potremmo fare una scelta peggiore. Fanny osservava e ascoltava, non senza reprimere un sorriso nel notare che l'egoismo, più o meno evidente, sembrava governare ciascuno di loro e si domandava come la cosa sarebbe andata a finire. Pensando al suo personale divertimento, avrebbe avuto piacere che mettessero in scena qualcosa, poiché non aveva mai visto rappresentare nemmeno la metà di un'opera teatrale. Ma ogni più valida considerazione puntava contro il progetto. «Oh, in questo modo non concluderemo nulla», disse finalmente Tom Bertram. «Stiamo solo perdendo tempo, dobbiamo decidere qualcosa. Non importa che cosa, purché si giunga a una scelta. Non dobbiamo essere tanto esclusivi, non dobbiamo lasciarci spaventare da qualche personaggio in soprannumero. Lì potremmo doppiare. Dobbiamo abbassare un po' il livello delle nostre pretese. Se una parte è insignificante, tanto maggiore sarà il merito di chi saprà metterla in valore». «Da questo momento io non opporrò più difficoltà. Accetterò qualsiasi parte vi sembrerà opportuno assegnarmi, purché sia comica. A patto che sia comica, non pongo altre condizioni». Poi propose almeno per la quinta volta The Hare at Law, limitandosi a mettere in dubbio se gli convenisse preferire il personaggio di Lord Dubberley o quello del dottor Pangloss, e adoperandosi con grandissimo impegno, ma senza successo, per convincere gli altri che vi erano anche alcune belle parti tragiche per loro. La pausa di silenzio che seguì questo ennesimo infruttuoso tentativo fu improvvisamente interrotta dallo stesso Tom che, dopo aver preso in mano uno dei numerosi testi che giacevano sul tavolo ed averlo esaminato qua e là, esclamò: Lover's Vows! E perché mai Lover's Vows non dovrebbe andare bene per noi se è andata bene per il Ravenshaw? Come mai non ci abbiamo pensato subito? Vi sono due splendide parti tragiche per Yates e per Crawford. E il personaggio del maggiordomo rimatore fa proprio il caso mio, se nessun altro lo vuole. È una particina da niente, ma del genere che non mi dispiace. E come ho detto prima, sono decisa ad accettare qualsiasi parte e a fare del mio meglio. Quanto agli altri personaggi, possono essere assegnati a chiunque li voglia. Si tratta solamente del conte Castle e di Anhalt. La proposta incontrò il consenso generale. Erano ormai stanchi dell'indecisione e la prima idea che si impose a ciascuno fu che fino a quel momento non si era presentato nulla di così appropriato e soddisfacente per tutti. Particolarmente soddisfatto ne fu Mr. Yates. A Eckesford aveva sospirato e anelato di impersonare il barone, aveva criticato ogni tirata di Lord Ravenshaw e si era sfogato a reclamarla per proprio conto in camera sua. Imperversare nella parte del barone Windelheim era la più alta delle sue ambizioni teatrali. E ora, col vantaggio di conoscere già a memoria una metà delle scene, offrì con la massima alacrità la propria collaborazione, dichiarandosi pronto ad assumere quella parte. Va detto, comunque, per amore di giustizia, che non se ne appropriò definitivamente. Infatti, ricordando che la parte di Frederick conteneva alcune eccellenti tirate, si disse ugualmente disposto ad accettare quella. Harry Crawford, dal canto suo, era pronto a sobbarcarsi sia l'una che l'altra. Quella che Mr. Yates avesse scartato sarebbe andata benissimo per lui. E a questo punto si svolse fra i due una schermaglia di cortesie. Miss Bertram, che quale futura Agatha prendeva grande interesse all'esito dell'alternativa in discussione, finì col prendere su di sé la responsabilità della decisione, facendo osservare a Mr. Yates che nel caso presente era opportuno prendere in considerazione la figura e specialmente la statura dell'attore, per cui, essendo lui il più alto dei due, le sembrava egli maggiormente adatto a impersonare il barone. Poiché tutti riconobbero che aveva perfettamente ragione e le due parti vennero assegnate in conseguenza, Maria si assicurò il Frederick che desiderava. Tre parti erano così assegnate, oltre a quella di Mr. Rushworth, che a detta di Maria era pronto ad accettare qualsiasi personaggio, ma Giulia, che come sua sorella aspirava ad essere Agatha, incominciò a provare qualche scrupolo nei confronti di Miss Crawford. Questo modo di agire non è giusto nei confronti di un'assente, disse. Non vi sono sufficienti parti femminili. Amelia e Agatha possono andare bene per Maria e per me, ma per sua sorella non rimane nulla, Mr. Crawford. Mr. Crawford disse che non c'erano problemi. Sua sorella ne era sicuro, non aveva alcuna intenzione di recitare, a meno che la sua prestazione non si rendesse necessaria. Per questo, nel caso presente, non avrebbe voluto essere presa in considerazione. Ma Tom si oppose immediatamente a questa dichiarazione e gli assicurò che da tutti i punti di vista il personaggio di Amelia aspettava a Miss Crawford, sempre che l'avesse accettato. Spetta a lei, necessariamente, naturalmente, disse, come quello di Agatha spetta all'uno o all'altra delle mie sorelle, e per loro non sarà un sacrificio, visto che è una parte tutta comica. Seguì un silenzio. Le due sorelle presero un'aria preoccupata, poiché ciascuna era convinta di avere diritto alla parte di Agatha e sperava che gli altri insistessero per assegnargliela. Harry Crawford, che nel frattempo aveva preso in mano il testo e con ostentata indifferenza sfogliava le pagine del primo atto, sistemò ben presto la cosa. Devo supplicare Miss Julia Bertram, disse, di non imbarcarsi nella parte di Agatha, perché ciò manderebbe a monte tutta la mia solennità. Davvero, rivolgendosi direttamente a lei, Non deve impersonare Agatha, no, non deve, non potrei resistere nel vederla ammantata di dolore e pallore. Tutte le risate che abbiamo fatto insieme mi tornerebbero inevitabilmente in mente e Frederick si vedrebbe costretto a prendere la fuga, con zaino e tutto. Piacevolmente, cortesemente, ma lo aveva detto. E il tono andò perduto, mentre invece la sostanza del discorso ferì il cuore di Giulia. Colse a volo lo sguardo che gli rivolgeva Maria e che le sembrò sottolineare il torto fatto a lei. Era tutto prestabilito, tutto un tranello. Lei veniva scartata e Maria era la preferita. Il sorriso di trionfo che Maria tentava di reprimere la convinceva che la cosa stava esattamente così e prima che Giulia riuscisse a dominarsi sufficientemente e a sentirsi in grado di parlare con calma, anche il fratello lasciò cadere il peso della propria opinione nell'altro piatto della bilancia. Oh sì, Maria deve fare la parte di Agatha, è più adatta. Benché Giulia immagini di preferire la tragedia, non mi fiderei di impegnarla in una parte tragica. Manca di temperamento tragico, non ha l'aspetto che permette di esprimerlo, la sua non è una maschera tragica. E poi cammina troppo svelta, parla troppo in fretta, non saprebbe mantenere la compostezza richiesta. Impersonerebbe meglio la vecchia contadina, la moglie del villico. Davvero, Giulia, quella della moglie del villico è una parte piacevolissima, ti assicuro. La vecchia contadina smorza la benevola enfasi del marito con una buona dose di umorismo. Farai la moglie del villico. La moglie del villico? Esclamò Mr. Yates. Ma cosa dice? La più banale, meschina, insignificante delle parti, la più terra terra, senza neanche una tirata tollerabile in tutto il lavoro. Una simile parte per sua sorella. È un insulto proporlo. A Exford doveva farla l'istitutrice. Fummo tutti d'accordo che non la si poteva assegnare a nessuna delle signore presenti. Un po' più di giustizia, signor regista, se non le dispiace. Lei non merita l'incarico se non sa valutare meglio il talento dei membri della sua compagnia. Beh, amico mio, disse Tom, quanto a questo, finché io e i membri della mia compagnia non saremo stati visti all'opera, tutto sarà solo un tirare a indovinare. Comunque, non intendo sottovalutare Giulia, semplicemente non possiamo mettere in scena due Agatha e ci occorre una moglie del villico. E poi mi sembra di averle dato io stesso un esempio di moderazione accontentandomi del vecchio maggiordomo, no? Se la parte è poco importante, lei avrà più merito se saprà darle rilievo. E se è così disperatamente contraria a ogni battuta umoristica, può prendere le battute del villico al posto di quelle della moglie del villico. Le parti sono perfettamente intercambiabili. Lui è, senza dubbio, più che solenne e patetico. Lo scambio non altera in niente lo schema del lavoro e, in quanto alla parte del villico, la prendo per me, di buonissimo grado, senza la minima esitazione. Purché abbia da dire io le battute che dovrebbero essere della moglie. Con tutta la sua parzialità per la moglie del villico, disse Harry Crawford, sarà impossibile farne qualcosa di adatto a sua sorella e non dobbiamo permettere che la sua gentile arrendevolezza si lasci imporre il punto di vista altrui. Non dobbiamo permetterle di accettare quella parte, non deve cedere alla sua naturale compiacenza. Ci sarà bisogno del suo talento nella parte di Amelia. Amelia è un personaggio ancora più difficile da rappresentare di quanto lo sia Agatha. Personalmente considero Amelia il personaggio più difficile di tutto il lavoro. Richiede grandi capacità e risorse, grande esattezza per imprimerle nella giusta misura un carattere scherzoso e semplice. Ho visto buone attrici, attrici professioniste, restare al di sotto di questa parte. E in effetti la vera semplicità è fuori portata di quasi tutte le attrici professioniste. Richiede una delicatezza di sentimenti che esse non hanno. Richiede una gentildonna, una Julia Bertram. Accetterà la parte, vero? E si volse verso di lei con una espressione di ansiosa supplica che la raddolcì alquanto. Ma mentre esitava, il fratello si frappose nuovamente, insistendo sul prioritario diritto di Miss Crawford alla parte. No, no, no, Giulia non deve fare la parte di Amelia, non è assolutamente adatta a lei, non le piacerebbe, non la sosterrebbe bene, è troppo alta e robusta. Amelia deve avere una figura da adolescente, un passo agile, danzante. La parte di Amelia è adatta a Miss Crawford e solamente a lei. Ella ha la figura richiesta dal ruolo, che ne sono certo impersonerà meravigliosamente bene. Senza arrendersi a queste argomentazioni, Harry Crawford continuò a supplicare. «Lei ci deve fare questo favore, sì, deve farcelo. Quando avrà studiato la parte, sono sicuro che se ne immedesimerà. Lei può preferire la tragedia, ma si vedrà con evidenza che la commedia l'ha scelta. Dovrà venire a farmi visita in prigione con un cestino di provviste. Non rifiuterà di visitarmi in prigione. Mi sembra già di vederla entrare col suo cestino». L'influenza della voce suadente non andò perduta. Giulia esitò, ma sospettava. Forse stava solamente tentando di pacificarla, di calmarla, di farle dimenticare l'affronto di poco prima. Non si fidava di lui. L'affronto era stato del tutto deliberato. Forse stava solo giocando con lei per ingannarla. Gettò uno sguardo diffidente alla sorella. L'espressione di Maria avrebbe deciso del suo proprio comportamento. Se l'avesse vista irritata e allarmata, ma il volto di Maria esprimeva solo serenità e soddisfazione e Giulia sapeva che sul terreno di quella discussione Maria poteva sentirsi soddisfatta solamente a spese di lei. Con impulsiva indignazione e con voce tremante, taglio corto, disse: «Non sembra avere più alcun timore di non riuscire a mantenersi serio vedendomi entrare con un cestino di provviste, benché si sarebbe potuto supporre. Ma è solo nella parte di Agatha che sarei stata così travolgentemente comica e fuori posto». Si interruppe. Harry Crawford, alquanto confuso, sembrava non trovare una replica adatta. Tom Bertram tornò alla carica. «Miss Crawford deve essere Amelia, sarà una Amelia eccellente». «Oh, non temere che io voglia quella parte», scattò Giulia irritata. «Non devo impersonare Agatha e non voglio nessun'altra parte. Quanto ad Amelia, di tutte le parti che vi sono al mondo è quella che più mi ripugna. La detesto. Una ragazzetta odiosa, insolente, priva di naturalezza, sfacciata. Ho sempre protestato contro l'idea di mettere in scena una commedia e questa è commedia nella sua forma peggiore». E così dicendo, corse fuori dalla stanza tra l'imbarazzo di più di uno degli astanti, ma suscitando in tutti loro scarsa compassione. In tutti, tranne che in Fanny, che silenziosa testimone di tutta la scena, non poteva pensare che il rifiuto di Giulia era provocato dalla gelosia e provare un'intensa pietà. Un breve silenzio seguì l'uscita di Giulia dalla stanza, ma suo fratello ben presto si rimise all'opera e prese ad esaminare con zelo il testo di Lover's Vows, con l'aiuto di Mr. Yates, per verificare quale scenario occorresse, mentre Maria e Mr. Crawford conversavano fra loro sottovoce. La dichiarazione con cui era entrata in argomento: «Cederei senz'altro la mia parte a Giulia se non fossi certa che probabilmente io la farò molto male, ma lei la farebbe ancor peggio». Stava ricevendo indubbiamente tutte le cortesi proteste del caso. Dopo che le cose si furono protratte ancora per un po', il gruppo si sciolse per quel giorno. Tom Bertram e Mr. Yates se ne andarono insieme nella ex sala da biliardo, che già incominciavano a chiamare il teatro, mentre Miss Bertram decideva di recarsi alla canonica per portarvi personalmente l'offerta della parte di Amelia a Miss Crawford. Fanny rimase sola. Il primo uso che fece di questa sua solitudine fu di prendere dal tavolo il volume che vi era stato lasciato ed incominciare a familiarizzarsi col testo su cui aveva sentito discutere. La sua curiosità era allerta e prese a scorrerlo con un ardente interesse interrotto ogni tanto da un senso di stupore al pensiero che un testo simile fosse stato scelto in quelle particolari circostanze, che fosse stato proposto e accettato per una rappresentazione familiare. Agatha e Amelia, nei loro personaggi pur così diversi, le sembravano totalmente inadatte a venire impersonate tra le pareti domestiche. La situazione dell'una e il linguaggio dell'altra, i loro atteggiamenti, le sembravano così impropri alla modestia femminile che non poteva credere che le cugine si rendessero veramente conto di ciò che stavano per fare e desiderava ardentemente che fossero richiamate il più presto possibile alla ragione dalle rimostranze che certamente Edmund non avrebbe mancato di fare.